qualche parte da disseppare. Io ti voglio bene. Scusa se ti dico tante cose, ma io ti ricorderò sempre. Poi tra parentesi con quella macchina fotografica. Ti voglio rivedere, capo.